Non so se abbiate assistito mercoledì scorso alla puntata della trasmissione televisiva Porta a Porta, che ospitava per la conduzione dell'ineffabile Bruno Vespa l'onorevole Umberto Bossi. Io sì, l'ho considerata un'esperienza altamente educativa. E non perché Bossi abbia detto qualcosa di particolarmente notevole o perché qualcosa di particolarmente notevole sia stato detto dai suoi interlocutori, tra cui si segnalavano, se ricordo bene, un direttore di quotidiano, due sindaci, un campione di biliardo e un'attrice dal nome vagamente ellenizzante che per l'occasione aveva ritrovato i vestiti che, secondo la copertina di un periodico d'attualità, la settimana scorsa aveva perso. Nessuno di costoro in effetti ha saputo trovare uno straccio d'argomento convincente a favore delle proprie tesi. Ma la trasmissione è stata interessantissima lo stesso. Io raramente ho visto in televisione o altrove un esempio così perfetto di strategia suicida, di desiderio così conclamato di fare trionfare la parte avversa. Perché all'inizio, mentre lo interrogavano sui suoi guai giudiziari o sulle sue tresche passate e presenti con Berlusconi, il Bossi era chiaramente in difficoltà e si rifugiava, come fa spesso, dietro i suoi "non ricordo, ma questo non c'entra", e cedeva nel suo tipico vizio di scaricare le responsabilità su leghisti a lui notoriamente subordinati. Non sembrava certo un leader capace d'attentare all'unità nazionale. Ma poi, a un certo punto, sulle note del tema di Via Col Vento sono entrati in studio il sindaco di Trieste, che è notoriamente di centro-sinistra, e quello di Bari, che è notoriamente del polo, ambedue cinti a bandoliera da vistose fasce tricolori, una mis che io avevo sempre creduto che i sindaci sfoggiassero in occasione di incombenze ufficiali, non per partecipare ai dibattiti televisivi, no? E avreste dovuto vederlo il Bossi, è rifiorito come l'erba inaridita dell'inverno a contatto con la pioggerellina di marzo. Capirete, convocare quei due tricolorati significava poggiargli sul classico piatto d'argento la conferma a una sua tesi di fondo, quella per cui governo e opposizione, Polo e Ulivo, in fondo si eguagliano nell'ostinata difesa del centralismo. E quando è entrato in scena il gruppo corale Città di Biella per esibirsi nel celebre testamento del capitano, e poi Vespa ha impugnato un pezzo di trincea della Grande Guerra, un pezzo da lui personalmente raccolto dalle parti del Falzarego, e ha rievocato i sacrifici affrontati dai combattenti in nome della patria, e poi ha fatto proiettare un filmato sull'innalzabandiera a Trieste nel 1918 e sull'ingresso dei bersaglieri in quella città nel 1952, e il sindaco di Bari ha ricordato gli 80.000 caduti oltremare che riposano nella sua città. Beh, mentre succedeva tutto questo, la statura di Bossi non faceva che crescere, è diventato uno statista, ha affermato sobriamente il proprio rispetto per i caduti, non ha avuto proprio nessuna difficoltà a ricordare che quello di patria è un concetto storico e quindi relativo, ha trovato modo di dichiarare la propria indefettibile fede nella libertà e nel metodo democratico. In definitiva ha chiuso la trasmissione molto meglio di come l'avesse cominciata. E noi telespettatori siamo restati lì a chiederci perché, con tanti argomenti seri e importanti che qualsiasi persona ragionevole potrebbe usare in contraddittorio con Bossi, qualcuno avesse deciso di giocare tutta la trasmissione su un tema come quello del patriottismo, che non solo è connotato ideologicamente in quel certo modo che sappiamo tutti, ma che può essere l'uso con la massima facilità da chiunque, compreso Umberto Bossi, sia abbastanza spudorato da affermare in pubblico che anche lui una patria in cui credere ce l'ha. E forse qualcuno avrà concluso che l'unico vantaggio di quella tematica è quello di essere oggi come oggi straordinariamente a buon mercato. Perché capirete, ci vuole capacità e volontà politica, di cui evidentemente non tutti dispongono per rispondere a certe richieste, per avviare quella riforma dello Stato centralizzato che tutti dicono di voler fare e che nessuno neanche ha bozzato, per eliminare le pratiche vessatorie e manifestamente ingiuste nel sistema fiscale e così via. Ce ne vuole. In compenso non costa assolutamente nulla evocare 8.000, 80.000, 800.000 caduti che si sono sacrificati o che sono stati sacrificati per tutte altre cause che quelle per cui ci agitiamo noi e che comunque per la loro patria, suppongo, avrebbero preferito vivere a lungo e pacificamente operare. È proprio il rispetto per quei caduti che oggi impedisce a molte brave persone di far proprio la nota massima del dottor Johnson, quella per cui il patriottismo is the last refuge of a scoundrel, l'ultimo rifugio dei furfanti. In compenso, nessuno può dubitare che sia una vera benedizione per gli incapaci.